Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! E buonasera, buonasera a tutti qui da Radio Wombat, il vostro sabato sera con Basement Records, la nuova edizione di Basement Records. Stasera grandi sorprese, ospitoni che hanno raccolto l'appello fortunatamente delle ultime trasmissioni e sono venuti a darci man forte per la prosecuzione del programma. E ho l'onore stasera di essere qui nella regia di Wombat insieme a Giovanni, che mi ha portato un po' di suoi vinili dalla collezione. Benvenuto. Ciao, ciao, ciao a tutti e a tutte. Ciao. E ora vedremo un po' con che cosa ci stupirà. Riconoscerete la voce che era di Soul Time, che poi mi ha assicurato ripartirà al momento debito. Sì, prima o poi si riparte. Sì. E intanto è venuto qua in mia compagnia a farmi conoscere un po' dei suoi dischi, della sua collezione personale. Sì, ho portato un po' di roba, insomma, quella che è la mia collezione, che spazia principalmente tra soul, northern soul, R&B, early reggae, ska, rocksteady, questa robina qui, sì. Soul Time ovviamente si occupava solo di soul, ma ci sarà anche appunto quello che è il mondo del reggae e i vari sottogeneri del reggae. Giustamente, sì, direi. Sì. E con cosa partiamo stasera? Visto che si parlava di Soul e Soul Time, partirei con questo Boogaloo, che è un brano dei The Brothers Two che si intitola Boogaloo, tra parentesi, Soul Party. ce lo andiamo ad ascoltare. Ce lo andiamo ad ascoltare subito, giustamente. Vai, sentiamo, vai. Partiamo con la musica subito. Eccola qua, arriva, eh. Ovviamente Basement Records su Radio Wombat. Questo era un Boogaloo infiammato dei Brothers 2, era Boogaloo Soul Party, un gran pezzone danzereccio. Sì, sì, sì, gran pezzo, gran pezzo. Gran pezzone danzereccio. E ora sì, col buon conduttore si chiacchierava del fatto che questa trasmissione è nata da un ritrovamento di dischi, sì. No? Quindi così, tra una chiacchiera e l'altra, mi è venuto in mente che anch'io ho dei ritrovamenti di trovati in soffitta diversi anni fa di dischi di mio nonno. C'era ovviamente tantissima musica italiana, tarantelle, tutte ste robe qua, quadrigli, eccetera, ma c'era anche un po' di musica statunitense, tra cui anche dei brani soul e anche un paio di brani funk. Quindi infatti moderno il nonno. Sì, eh? Sì, sì, aveva delle cose, non so se acquistate volutamente o se le ritrovate, quello non ho idea perché non ho mai avuto modo di chiederglielo, però c'era questo pezzo funk dei KGs che si intitola Waiting at the Bus Stop, diviso in due parti. Io vi propongo la parte 1, quindi ascoltiamoci questo ritrovamento in soffitta di almeno 15 anni fa. Assolutamente, eh? Direi. Vai, ascoltiamocelo, vai. Ritrovamenti a Basement Records. Bye. Bellissimo questo pezzo, glielo stavo dicendo proprio mentre stava andando, ma proprio colpita al cuore con la mia passione per il disco funky, e questo è proprio disco funky ai massimi livelli. Sì, sembrava sì, proprio di sentire uno dei pezzi delle discoteche newyorkesi della fine degli anni 70. E infatti sull'etichetta c'è scritto proprio The New York Sound Gang Records, quindi proprio sound newyorkese, stampato in evidenza proprio sull'etichetta, brano del 76, 1976. Bellissimo, tra l'altro sì. Ricordiamo ancora chi sono i KGs con Waiting at the Bus Stop. Ascoltandolo ci sono venuti i pantaloni a zampa d'elefante, si sono allargati, si sono modificati da soli. Abbastanza, hai visto il titolo della canzone, hai visto il pezzo com'è, speriamo che questo bus, che questo autobus non arrivi mai per far continuare il pezzo all'infinito. Sì, gran pezzone. Che dici, continuiamo con la musica dopo questo? Rallentiamo, rimaniamo sempre nei ritrovamenti in soffitta. Certo. Te li ritrovasti in cantina? Io li ritrovai in fondo a una cassa panca, dispersi da penso almeno, non voglio dire 40 anni, ma saranno state almeno 30-35 sicuramente. Polvere ce n'era, eh? Polvere ce n'era un bel po', però era stato ancora più bello perché erano svariati CD, è stato come ritrovare un vaso di Pandora che era fermo lì, chiuso da più di 30 anni, e l'emozione di recuperare appunto i dischi che erano poi quelli di mio padre, e riascoltarmeli e sentire quello che avevo ritrovato. E le prime 5 puntate le avete sentite anche voi, anche se selezionate dalla grande massa di 45 che avevo trovato, un po' di selezione giustamente per togliere le cose più commerciali e più scontate, ma sono venute fuori veramente, almeno penso, delle chicche, niente male. Ci ha fatto sentire delle gemme, senza dubbio. Sì, anche perché erano cose, la maggior parte di classifica, però essendo classifiche classifica di qualità. Sì, di fine anni 70 e inizi anni 80, anche quello che sembrava magari al tempo spudoratamente pop, risentendolo con 40 anni di distanza, ce ne fosse di pop. Esatto, cioè così al giorno d'oggi, di produzione, anche di sperimentazione in alcune, non era, sì, era musica commerciale, ma spesso ma non volentieri banale, commerciale, banalmente fatta per essere venduta. Poi vabbè, quegli anni lì mi ricordo che la maggior parte dei dischi, appunto come dicevo all'inizio nelle prime puntate, era tutta roba che apparteneva al triennio 70-73, con qualcosa anche della fine dei 60, quindi insomma erano anni buoni per qualsiasi genere musicale, direi. Sì, sì. Anche perché i dischi si vendevano, quindi l'industria discografica poteva permettersi di pubblicare. Esatto, di pubblicare, di investire su sonorità nuove, eccetera. E anche molto sperimentali, perché alla fine alcune cose risultano, cioè poi anche con 40 anni di distanza la qualità proprio produttiva del disco si sentiva, e anche se magari erano, come si dice, one hit wonder, che avevano avuto quel successo di classifica e poi spariti, però il livello, almeno secondo me, è sempre rimasto parecchio alto. Sì, molto alto, senza dubbio, certo. Erano altri tempi, sì, noi siamo qui. Sì, la con nostalgia di un tempo mai vissuto. vissuto solo, diciamo, in tramite le note. In terza persona, e tratteggiando il mito, come, come si può dire, perché sono stati anni leggendari, ecco. Caspita, caspita, se è vero, sì, sì, sì. Che dici? Andiamo, torniamo, quindi rimaniamo sempre negli anni addietro? Sicuramente. Quindi, ritorniamo in soffitta. Quantomeno per quanto riguarda quello che hai davanti, sono un retromaniaco, quindi... Siamo in due. Come, sì, come direbbe, sì, Simon Reynolds, sono un retromaniaco. Sì, siamo in due stasera, una bella combutta. Mi ascolto anche volentieri le ultime uscite, però che mi rimanga qualcosa che mi colpisca particolarmente, ecco, la percentuale è abbastanza bassa, è sempre, sì, più, sì, sì, in diminuire, mentre, sì, invece se ritrovo qualcosa degli anni andati, qualcosa che già gracchia, che già mi cominciano a brillare gli occhi e a sudare le mani, ecco. Sono gioie. Sì, assolutamente. Le gioie delle riscoperte viniliche, che poi sì, è la base, appunto, di Basement. È lo spirito di questo programma, quindi è perfetto, perfetto così. Sì. E adesso cosa ci farai ascoltare? Rimaniamo sempre in soffitta. Questo è uno, no, non ne ho portati molti, in realtà, di quelli dei ritrovamenti della collezione del mio nonno. Come vi dicevo, tra le tante robe che magari non erano meravigliose, c'erano alcune pubblicazioni veramente belle. Questa in realtà è un grande classico della musica americana, è Brenton Wood con Gimme Little Sign. Sull'etichetta, l'etichetta Bel Dischi Italiana, quindi una produzione statunitense ma stampata per il mercato italiano. Sì, una ristampa per il mercato italiano. C'è anche una birichina dedica a una certa Maddalena. Io non ho idea di chi sia Maddalena, però c'è scritto Maddalena sull'etichetta. Mia nonna non si chiamava Maddalena. Quindi dovremmo dedicarla. La dedichiamo a questa Maddalena. Che chissà se c'è ancora sulla terra, però la dedichiamo a questa Maddalena. Quindi direi di ascoltarci questo grande classico, poi rivisitato anche in chiave rocksteady dopo qualche anno, Brenton Wood con Gimme Little Sign. Let's go, Basement Records. You do want me, give me little shelter. If you don't want me, don't leave me on the you should do. Just give me some kind of sign, girl, of my baby, to show me that you're mine, girl. Oh yeah. Just give me some kind of sign, girl, of my darling, to show me that you're mine, girl. All right. If you want me, give me a little sweet talk. If you don't want me, don't leave me on, girl. But if you need me, show me that you love me. And when I'm feeling down, wearing a frown, you'll be there when I look around. And just give me some kind of sign, girl, of my baby, to show me that you're mine, girl. All right. Just give me some kind of sign, girl, of my baby, to show me that you're mine, girl. Stavamo appunto dicendo di quanto è classica questa canzone, Veramente sì. Un pezzone soul, un grande classico. Give Me Little Sign, poi rifatta da Sign. Sì, rifatta poi da Owen Gray. Gli amanti del rocksteady, dell'early reggae, sicuramente conosceranno la versione di Owen Gray, insomma, super famosa anche quella. E poi mi dicevi che avevi dei dubbi anche su Ken Booth l'avesse rifatta. Sì, magari non mi ricordo, io ho una memoria pessima. Magari probabilmente live la esegue, come si probabilmente dire. In versione live. Quanto sì. riguarda la memoria, penso che non credo che riuscirai a battermi. Quando ti svegli vai a cercare la carta d'identità per ricordarti come ti chiami. Sì, non mi riconosco allo specchio. Allora stiamo più o meno messi uguale, va bene. No. È stata una gioventù complessa che ha i suoi strascichi ancora oggi. Portiamo ancora addosso le cicatrici. Già. Vabbè, ci consoliamo con i dischi, va bene. Per forza. E adesso? Sì, prima così è venuto ora mentre ci ascoltavamo Give Me Little Sign, si chiacchierava proprio di quello che abbiamo detto prima di questo pezzo, cioè del fatto che siamo comunque amanti della musica del passato, chiamiamola così in maniera un po' enciclopedica. Assolutamente, però sì. Si diceva che ogni tanto c'è anche qualcosa di moderno, contemporaneo che ci piace. Quindi mi sono venuti in mente un paio di pezzi sempre che ho portato da casa, che sono produzioni assolutamente moderne di qualche anno fa, che suonano però assolutamente anni 60. È anche giusto che sia così, se no ci prendano per dei vecchiacci nel reparto geriatrico. Sì. Andiamo a Radio Wombat a fare l'ora d'aria. Sì, l'ora d'aria. Vai che c'è la balera oggi, vai. Ti sei dimenticato la dentiera. Qui solo spuma, si beve solo spuma e cedrata. Sì, quello non credeteci, però diciamo di sì. Diciamo che abbiamo messo le dentiere dentro il bicchiere della birra, dai. Sì. Mannaggia. E quindi niente, ci ascoltiamo una produzione, in realtà il pezzo originale è assolutamente gli anni 60, questa è una produzione di qualche anno fa della compianta Sharon Jones, che è scomparsa un anno e mezzo fa, non di più, per un male incurabile scomparsa, quindi Sharon Jones che ha collaborato per tutta la sua carriera con la Dapton Records, infatti, qui abbiamo un bel dischetto il gruppo di supporto erano i Dapton Kings, se non mi ricordo male. Esattamente, sono i Dapton Kings. Ora non so sinceramente come proseguirà la cosa, visto che la voce principale non c'è più. Però credo che stiano facendo delle cose per conto loro, perché la Dapton è almeno per i miei gusti musicali è sempre un'etichetta che va tenuta sott'occhio, anche l'altro grandissimo Charles Bledley. Fa delle cose molto belle. Anche Charles molto, Bledley molto è scomparso poco fa, sì, è scomparso qualche mese fa. Sì. Quindi la Dapton diciamo ha avuto dei colpi abbastanza importanti, ha perso delle voci straordinarie, questo è un gran uniche peccato. Direi sì assolutamente, quantomeno nel panorama moderno a livello di soul black music la Dapton ha dato negli ultimi anni decisamente un grosso contributo e anche nuova linfa a quella che è comunque la black music, senza ombra di dubbio, perché ha rimodernato tanti parametri del soul anni 60, che comunque è sempre riconoscibile come radice di fondo, però sono riusciti a dargli anche una produzione moderna, contemporanea, per farla apprezzare anche alle nuove generazioni, diciamo, e hanno dato una bella riverniciata. Sì, una bella riverniciata, però mi piace la definizione. Grandissimo rispetto per il lavoro della Dapton Records. Sì, continua a fare comunque soul senza assolutamente rinnegare le radici, senza renderlo troppo commerciale o ammiccare o che ammicchi troppo po' al mercato, insomma. Questo pezzo, si diceva prima, un grande amante, fa parte anche della colonna sonora, non questa versione, ma la versione originale fa parte della colonna sonora del film Il Grande Lebowski. Quindi non possiamo esimerci da dedicarla a un fan del Grande Lebowski, un amante di questa canzone, che secondo me, sono quasi pronto a scommetterci, non conosce questa versione qui. Quindi gli facciamo anche questa sorpresa a Prog 642 bis. Gli facciamo questa sorpresa. Anche detto Prog 357 Magnum. Sì, ma solo per gli amici più stretti, solo per gli amici più stretti. Quindi secondo me questa persona non la conosce, poi ne parleremo di persona. Il titolo del brano è lunghissimo, chi ha visto il film Grande Lebowski sicuramente lo riconoscerà, anche se appunto è una versione differente questa di Sharon Jones e The Dap Kings. Il brano si intitola I Just Dropped In To See What Condition My Condition Was In. È un titolo lunghissimo, quindi direi ascoltiamoci questo dischetto Dapton Records e la voce di Sharon Jones. Un pezzone della Madonna, lo riconoscerete subito. Sì, gran pezzo, gran pezzo. Che pezzo della compianta Sharon. Eh sì, gran pezzone questo, sì sì, decisamente. Sul lato B c'è anche la strumentale, ma non ce l'ascoltiamo, andiamo avanti con la musica, ci ascoltiamo qualcos'altro. Si diceva sempre nel fuori onda, bel termine fuori onda, di ascoltarci un altro pezzo contemporaneo, che suona decisamente 60s, ma è contemporaneo, di qualche anno fa, che tra l'altro è un brano che con un po' una hit degli Emerson Setters, con il quale insomma io con altri condividiamo la console e l'impianto autocostruito. Questa è una hit che suono praticamente ogni santa serata che si fa con gli Emerson Setter, la suono sempre, e a questo punto facciamo spazio pubblicità. Certo. Ricordiamo l'appuntamento con gli Emerson Setters, ci sarà al CSA Next Emerson questo fra poco. Ah, sì. stasera, sabato. Quindi quando sì. avrete finito di sentire esatto. la trasmissione, esatto, fiondatevi al CSA Next Emerson in via di Bellagio, che ci sono gli Emerson Setters a suonare stasera. Sì, avremo il live dei Fishbones dal vivo sul palco del CSA Next Emerson, e prima e dopo il concerto ci sarà appunto il DJ set. O meglio un set, ma sull'impianto autocostruito, l'impianto più vintage d'Europa, ad amplificazione valvolare, lo dico sempre, non gliene frega a nessuno, ma a me mi piace no, dirlo. No, invece qui a preamplificazione valvolare. Qui hai trovato qualcuno che apprezza tantissimo queste cose e vale assolutamente la pena di ricordare questa cosa, che è una caratteristica assolutamente fondante, voluta e perseguita e elaborata dopo anni e anni di lavori, di aggiustamenti, ricerche, sì. ricerche, e vale la pena assolutamente di ricordare appunto che l'impianto è tutto autocostruito, cioè fatto con le nostre mani, perché spesso si dice autocostruito, ma l'ha fatto il falegname. No, l'abbiamo fatto noi. Anche il progetto, progettato. La progettazione l'abbiamo curata anche noi. E quindi ci piace diffondere la musica da queste casse progettate e costruite da noi. Il suono è decisamente vintage, voluto. Volutamente così, suona vintage. Come la Pink definisce, suona. Suona come la radio di tua nonna, più o meno l'idea di fondo è questa, e anche la selezione musicale non raramente sfiora il 79, l'80 come anni, ma raramente, giusto quando si mette qualche roba funk, ma per il resto diciamo rimaniamo prevalentemente tra gli anni 60 e 70. Vi ricordo che stasera appunto ci sarà lo ska punk rap dei Fishbones, e dopo il set ci sarà soul, che curo io la parte soul, poi ci sarà ska, rocksteady, rockabilly, rock and roll, e anche del sano funk. Questo è un po' il magma musicale degli Emerson Setters, sì, che vi aspetterà stasera, esatto, non mancate, esatto. Se siete dalle parti di della provincia di Firenze, sì, pigliate la macchina e venite, ma anche l'autobus, fiondatevi qua, tanto sì. Ancora siete in tempo, cioè, ha voglia, stiamo ancora a fare i suoni, non vi preoccupate. C'è tempo. Quindi ci ascoltiamo questo brano recente, vi dico la verità, non mi ricordo esattamente l'anno di produzione, vediamo se c'è scritto sull'etichetta. Esatto, sicuramente posteriore al 2003, perché c'è scritto since 2003, però sì, è molto recente, di pochissimi anni fa questo brano, siamo sicuramente nei 2000. Il gruppo è un gruppo portoghese. A sentirli non si direbbe, sembrano decisamente statunitensi come sound, ma il gruppo è portoghese. La voce è di Marta Wren, una bellissima voce, e il gruppo per esteso è Marta Wren and the Groovelts. Il brano si intitola I'm Not a Regular Woman. E vai. Thank you. C'eravamo come sempre persi in chiacchiere. Sì, infatti, in aneddoti, in facezie. In aneddoti dei vari vinili. E questo è un altro gran pezzone, comunque, appunto, poi così particolare perché da una band portoghese, però bellissimo, direi, veramente un suono. Sì. Porta indietro nel tempo, porta decisamente bello, nel decisamente tempo, molto, bravo. Molto bello. Sì, sì. Con un bel tiro, un bel sound, bello. Infatti, appunto, come vi dicevo, è un brano che con Emerson, quando piazzo i dischetti con gli Emerson Setter, praticamente metto tutte le volte, e ne ho preparato anche un altro che è un po' una hit assoluta. Poi dopo ce n'è un altro ancora che in cui ci eravamo persi in chiacchiere, ma ormai ho preparato un altro, quindi quello lo mettiamo dopo. Non anticipiamo niente, non anticipiamo troppo. Non spoileriamo, eh? Esatto. Questo in realtà è un brano su etichetta Solvation, viene dai miei acquisti inglesi, ho un po' di spacciatori in Inghilterra dove acquistare i dischi. E qui abbiamo appunto un'altra hit assoluta per quanto riguarda i DJ set Emerson Setter. Comunque ti piace vincere facile, avere spacciatori inglesi, per forza ti danno roba buona. No, poi, dopo vi metto una di uno spacciatore italiano. Guardiamo, si trova tanta roba molto bella anche in Italia. Certo, basta andare dalle persone giuste. Esatto, sì, basta avere gli agganci giusti. Sì. Che dici? Ci ascoltiamo il prossimo brano? Per forza. Questo qui è del 1965, brano diciamo dell'area di New York, di New York City. È un pezzo che a me personalmente mi piace tantissimo. Si intitola You Don't Mean It No Good, tra parentesi alternative version, e il gruppo è The Jelly Beans. Ce lo ascoltiamo, che dici? Spingo play? Ah sì, vai. Per forza. Ascoltiamolo, vai. Via. Questi erano i Jelly Beans con You Don't Mean No Good, pezzone, gran brano anche questo, bello, sì, molto sì, bello. Sì. super riff di violini ricordano un po'. Secondo me sono un po' precursori anche della disco, in alcuni momenti. Sì, il violino, certo, incalzante, incazzato, un po' ricorda la... Secondo me la disco è nata anche da brani come questi, insomma. Certo, perché appunto veniva le sezioni di archi e di violini erano derivate appunto dal, certo, sound di Philadelphia, sì, che sì, era proprio... tutti questi arrangiamenti di archi era proprio tipico del Philly Sound, Philly Sound, questo filone di cui ho già fatto due puntate su Tonight Alive, perché appunto la Philadelphia International è una un'etichetta fondamentale sia per il soul ma anche per certo funk e sicuramente, caspita, per l'inizio della disco, sì, senza, sì, Philadelphia International la disco e certa musica da discoteca avrebbe suonato sicuramente in maniera modo diverso. Sì, decisamente. Vero. Prima di farci lapidare dal direttivo di Wombat, abbiamo roba bollente per le mani. Prima di farci linciare dal direttivo di Wombat, volevo ricordarvi i nostri canali per mettervi in contatto con noi. Ovviamente, la nostra frequenza in AM, in onde medie per l'area fiorentina, 1359 1359, mi raccomando memorizzatela sull'autoradio se siete qui dalle parti di Firenze, così potrete ascoltare anche Radio Wombat mentre andate in macchina, o se no il nostro sito dove potrete trovare tutti i podcast e tutti gli aggiornamenti, tutte le news, tutti i notiziari e tutte le varie trasmissioni aggiornate della radio e il sito, spero che lo conosciate già se ci state ascoltando, è sempre wombat.noblogs.org. La nostra mail per mettervi in contatto con noi, per infamarci, farci notare delle cose, richieste e tutto quello che vi passa per la mente è come sempre postawombat@insiberia.net, e poi anche i nostri canali social, perché non vogliamo sembrare retromaniaci fino in fondo, ma abbiamo anche dei canali social, ovvero twitter.com/radiowombatfi, dove quando seguiamo con la radio i vari eventi in diretta vengono fatti gli aggiornamenti minuto per minuto dei vari eventi che stiamo seguendo, e anche il nostro canale Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. Bene, ora abbiamo adempiuto ai nostri, esatto, doveri, esatto, per evitare la lapidazione in pubblica piazza, quindi siamo salvi almeno per questa settimana. Sì. Ci siamo fatti belli, ora possiamo sputtanare tutto. Ora abbiamo adempiuto al nostro dovere, quindi possiamo andare avanti. E ora sì, il consiglio d'amministrazione del Wombat può sedersi oppure può assentarsi, sì, sarebbe, sì, meglio. Sì, sì, sì. che erano già lì con le pietre in mano. No, allora, caviamoci subito il dente. Si parlava appunto di gemme, di robe strane nelle nostre collezioni. Ho qui per le mani una pubblicazione italiana che si intitola Tutto va meglio. Dillo tu, vai, così si incazzano con te. È facile scaricare il barile. Tutto va meglio con Coca-Cola. No, io leggo con la Coca. Sì, in inglese in realtà c'è scritto Coke, quindi c'è un doppio senso interessante. In realtà è una pubblicazione poi molto interessante, ovviamente promozionale ed estremamente commerciale per un'industria che avvelena mezzo mondo con lo zucchero e i vari troiai che ci mette dentro, però a livello musicale è sicuramente molto interessante. Appunto, nella versione italiana è Tutto va meglio con Coca-Cola, in inglese Things go better with Coke. La cosa estremamente curiosa è che sono due lati, un 45 giri. Lato A abbiamo Ray Charles e lato B abbiamo le Supremes. Entrambi i brani si intitolano Everything, eccetera, Go Better with Coke. Quindi diciamo è più una curiosità collezionistica, ecco, lungi da noi dal voler promuovere. No. Consiglio la direzione del Wombat all'ascolto. Anche perché quindi Volevo far notare appunto i due artisti, esatto, che esatto, hanno chiamato, cioè Ray Charles e le Supremes, sì, sì, non è che abbiano chiamato proprio Frisbee, ecco, a sì, cantare questa cosa. Amo ricordare, ora non so di quale anno è, le Supremes erano inizialmente erano solo le Supremes, poi quando venne fuori il talento soprannaturale di Diana Ross diventarono le Diana Ross and the Supremes, che hanno inciso con caratteri di fuoco la storia sia del soul che di una parte della disco, cioè un gruppo fondamentale, ecco, sì. Ora non so se qui erano le Supremes. Erano solo Supremes. Sì. Ma non so se nella fase prima in cui c'era ovviamente Diana Ross, quando avevano già fatto lo split, erano ridiventate Supremes, perché poi Diana Ross. Questa è una bella domanda, mi cogli impreparato. Se non mi sbaglio, nel 72 poi decise di intraprendere la carriera solista. Mi cogli impreparato, così a naso, almeno dalla grafica, quelle che sono le mie conoscenze grafico-artistiche, la copertina di questo disco non sembrerebbe propriamente anni 70. No, direi decisamente di no. Quindi, a parte come parte il disco, se c'è Diana Ross, secondo me sì, lo sentiremo insieme. La riconosciamo subito, ecco. Sì, la voce, diciamo, che di quelle è abbastanza inconfondibile, quindi su quello non ci si sbaglia. Sì, abbiamo questo 45 RPM not for broadcast use, cioè non destinato solo ad essere usato nelle radio. E invece noi glielo tiriamo, lo mettiamo in saccoccia. Quindi dai, ci salviamo in calcio d'angolo, non era per il broadcast, noi siamo ribelli, certo. E nonostante sia Coca-Cola lo mettiamo in radio. Che poi te l'ho detto, sarà anche Coca-Cola, però vabbè. Va pro canto le Supremes, da un lato c'è Ray Charles, poi Ray Charles con la Coca-Cola e si sa, una discreta passione. Anche le Supremes. Anche le Supremes secondo me proprio non erano delle domande. No, in convento non ce le vedo. Mi sa che chissà quante ne combinano pure in convento. Ora. E queste quindi sono le Supremes, esatto, con esatto. Go Better with Coke. Su etichetta Coca-Cola, tra l'altro. C'è proprio scritto The Coca-Cola Export Corporation. Quindi. Non so quanti dischi abbia fatto la Coca-Cola, ma questa è una multinazionale. Ma fanno che gli pare. Se vogliamo fare un disco, aprano un'etichetta e poi chiude il giorno dopo. Ma che gliene frega. Verissimo. Quindi dai, ascoltiamocelo e vediamo Things Go Better with Coke, se le cose vanno meglio. Con Coke non credo, ma con le Supremes sicuramente di sicuro. Sì. E ovviamente sempre qui a Basement Records su Radio Wombat. Can I have another glass of Coke, please? And a little more ice? Oh, love is ticking. Can I have another glass of Coke, please? And a little more ice. Sensational Supreme! Allora, spiamo dopo questo inno alla Coca-Cola, abbiamo sdoganato tutto credo, sì. Sul Radio Wombat. Penso, allora Giova, non so te, ma penso che abbiamo già prenotato a nome di entrambi un viaggio di solo andata verso la Siberia, probabilmente. Vladivostok ci aspetta. Vedremo i tramonti sullo stretto di Bering. Speriamo di riuscire dalla regia stasera. Dopo questo si è fatto tutto, però recuperiamo con una bevanda più sana. Promessa, ecco, ogni promessa è debito e rimedieremo subito, ve lo promettiamo. Musicalmente abbiamo subito il rimedio. Almeno per il viaggio in Siberia facciamoci dare un giubbotto, se no ci fanno andare pagare. Nudi, te lo dico. Se non si mette qualcosa di buono dopo ci mandano pure nudi in Siberia. No, io la vedo dura, per almeno un mese sparisco, mi faccio vedere a nessuno. vabbè dai, ci andava di proporre questa cosa particolare. Pezzo dai, ne valeva assolutamente la pena. In quale altro posto, in quale altra radio potevate pensare di sentire un pezzo come questo? Ma poi ovviamente, cioè, proveniente dalla collezione di Giova, quindi è proprio è come aprire l'ostrica e trovare la perla. Ma infatti ho portato troppi dischi, ce ne sono troppi, bisogna rifare. Anche se era una perla dentro la Coca-Cola, però insomma, però sembra una perla e buttala via. Sempre perla rimane. giusto, però dai, in tema di Coke... Di solito col Coke ci sta bene il whisky. Certo. Quindi diciamo che recuperiamo in questo modo. Dai, cerchiamo di salvarla in calcio d'angolo. Allora si chiacchierava appunto di... Siccome nella mia collezione, non mi ricordo se l'ho detto inizio puntata, mi sono dimenticato. Comunque varia da soul, northern soul, R&B eccetera, che abbiamo un po' ascoltato con questi brani. Ma ovviamente c'è anche tanto reggae. Il collegamento certo, che mi è venuto, stavo cercando il periodo Blue Beat, che è il periodo in cui l'R&B statunitense iniziava ad unirsi alla musica giamaicana. Guarda caso, destino ha voluto che tra, insomma, la pila di dischi che ho qui dietro con me, il primo brano che ho visto si intitola Drinking Whiskey. Quindi ci è venuto perfetto automatico. Collegare l'R&B americano, il solo americano con la Giamaica. L'ultimo brano che abbiamo messo parlava di Coca-Cola. Il prossimo brano è un brano Blue Beat, quindi un brano dove avrete modo di sentire l'unione tra la musica statunitense e i ritmi giamaicani, e si intitola Drinking Whiskey. Quindi era proprio il collegamento, se ce lo studiavamo non veniva meglio. Perfetto, quindi il Cuba Libre è già pronto con questo prossimo brano. Garçon, due Cuba Libre. C'è solo da mescolare adesso, facendo partire il disco è come se mescolassimo il nostro cocktail. Che poeta. Sto cercando di salvarci. Sì. Stiamo sviando il discorso. L'avvocato del diavolo. Mannaggia, sì, è duro. Però dai, ce la possiamo fare. Sì. E dici, ce la ascoltiamo allora. Per forza. Drinking Whiskey. Che tra l'altro, non a caso, l'etichetta Kingston Jamaica, quindi etichetta giamaicana, si intitola R&B, quindi tutto torna. Chi canta questa canzone non ha bisogno di molte presentazioni, è Loren Aitken, chiamato anche il padrino dello ska. Questo è il periodo leggermente precedente allo ska, di qualche anno, il periodo definito sostanzialmente blue beat, che era, come già vi ho detto fino alla noia, un po' l'R&B giamaicano, che poi è diventato ska, è diventato rock e così via. Il pre-ska, diciamo. Esattamente. Il gradino sopra, che poi nel giro di qualche anno verrà chiamato ska, diventerà ska, esatto. Poi si rallenterà, diventerà rocksteady, poi si rallenterà ancora, diventerà roots, reggae, dub e così via, e così via. Quindi ascoltiamoci questo brano che parla di Loren Aitken, per la precisione Loren Aitken and With the Caribs. Loren Aitken ci racconterà in musica e parole quanto gli piaceva bere il whisky. Non lo metto in dubbio. Basement Records. Oh, baby left me. She told me she loved me only. Now she's gonna leave me. She leave me in misery. Everybody feeling happy. I don't know what to do. Everybody feeling happy, but I'm so sad and blue. My baby left me. All alone and blue. Si sente tantissimo l'influenza dell'R&B americano in questo pezzo. Sì, è praticamente proprio R&B, a parte i suoni, cioè, caraibici, è praticamente R&B puro. Sì. Sì, e questo era proprio, come si diceva, fuori onda un Loren Aitken ai suoi esordi, perché poi appunto, cioè, sì, Loren Aitken ha fatto la storia dello ska. Esattamente, sì. Definito il padrino, cioè uno, se non l'inventore, sicuramente uno degli inventori. Di questo genere musicale. Sì. E quindi poi da questa roba qui è venuto fuori lo ska. Quindi chiacchierando si è cercato qualcosa. È un'etichetta importantissima, questo qui dietro, questo originale giamaicano dell'epoca. Siamo sempre negli anni 60, questo brano di Eric Morris, un altro grandissimo dell'isola caraibica, che ha contribuito a forgiare quello che è lo ska, come poi è diventato e come lo conosciamo oggi. L'etichetta è Treasure Isle, un'etichetta fondamentale per quanto riguarda tutta la musica giamaicana, ma soprattutto quella degli esordi, in particolare per lo ska e successivamente anche per il rocksteady. Quindi ci sembrava abbastanza naturale collegare la nascita di una musica autoctona giamaicana derivata sostanzialmente ovviamente da quella statunitense, per poi diventare 100% giamaicana. 100% perché musica giamaicana, la prima in assoluto è sicuramente lo ska, almeno a livello internazionale. Poi a livello locale c'era il mento, il calypso, che era musica più caraibica, ma lo ska ha iniziato girare per il mondo. Il mento e il calypso si possono definire un po', passami il termine, il folk dei Caraibi. Esattamente, sì, esattamente. Non era una musica che poi ha avuto modo di diffondersi in giro per il mondo, mentre dallo ska in poi la musica giamaicana, un'isoletta minuscola, ha invaso letteralmente il mondo. Sì, ha influenzato tantissimi generi musicali fino ad arrivare anche all'hip hop contemporaneo, insomma. Certo. Quindi insomma, cose che magari molti di voi già conoscono. Quindi boh, ascoltiamoci sto Treasure Island. Assolutamente. Questo originale, ci ascoltiamo. Il brano che si intitola Penny Reel, ce la canta Eric Morris. Basement Records. Questo era un pezzone ska di Eric Morris con Penny Reel dalla Treasure Island Records. Ci voleva un po' di ska. Sì, lo ska fa sempre bene. Ci voleva. A me me l'ha prescritto il medico anni fa. Fa sempre bene, un po' di ska al giorno da prendere nelle quantità in cui preferite. Ci sta sempre bene per far cambiare la faccia alla giornata. Sì. A prima mattina poi è abbastanza indicato, sì. Soprattutto se stai per entrare al lavoro e ti girano le balle, magari ti dà quel piccolo sorriso in più, dai, quel po' di ottimismo. Oddio, per farmi venire il sorriso a me la mattina presto, prima di andare a lavorare. Non basta manco la musica, cioè, stiamo un po' fricchettoneggiando, per carità, lo sappiamo. Però. Forse è più facile, forse se mi taglio le guance come Joker, è più probabile perché... No, a me mi viene il sorriso se piglia fuoco il posto di lavoro. Forse quello, perché se no, per farmi sorridere la mattina alle 7. No. Ci siamo voluti illudere un minuto, ma non funziona neanche. Oh, può, può essere, magari ho fatto il drittone dalla sera prima e allora magari sì, allora arrivo se arrivi in forma, se arriva ancora con il sorriso. Quello potrebbe essere uno dei tuoi motivi per cui arrivo con il sorriso in faccia al lavoro. È che non si può fare tutti i giorni perché sennò no, ci sa un'età. Capite anche noi, abbiamo un'età. Esatto, già ci compriamo i dischi, poi ne esageriamo. Quante cose volete, non si può mica fa tutto. Un po' alla volta, un po' alla volta. Si fa. Che facciamo? Lo mettiamo uno in chiusura o salutiamo? Dici, il boss sei tu qua. Il boss sono io. Io stasera sono ospite, quindi... direi secondo me un pezzo per salutare. Io non me lo so preparato, ma vado quasi... No, appunto è per questo, perché... Così lo scegli a caso. Ah, e allora tu racconta una barzelletta. Io racconto. No, lo devi scegliere a caso. Il primo che prendi, lo metti sul piatto. Se no, dov'è la sorpresa? Tanto è la tua selezione personale. Eccolo. Dei dischi. È impossibile che ci sia qualcosa. No, che non mi piace. Non è bello, o che non ti piace. Sì. No, l'ho trovato su. Il primo che ho preso, a caso, totalmente a caso. Era assolutamente a caso, però in realtà un filologico anche questo, vedi, è nelle collezioni che siano d'arte, di musica, c'è sempre un filologico. Vedi la casualità, è il famoso elemento casuale, no? Che poi così casuale non è, così appunto, casuale perché non è un'alea parziale, non è totale, vedi? Ma quanta poesia. Quanta poesia! Vladivostok, arrivo! ma a me mi danno concussione, però. Vabbè, ti tengo un po' stanca a te, nella Transiberiana. Ti tengo un posto, va bene. Dobbiamo recuperare, dobbiamo espiare le nostre colpe dopo aver messo vino alla Coca-Cola stasera. Quindi si è pescato a caso. Siamo partiti dal Blue Beat. Come abbiamo già raccontato, insomma, per sommi capi l'evoluzione della musica giamaicana, che poi è diventato ska, e a caso... Sì, c'è la porta qua che fa un po' casino. Non a caso siamo arrivati all'early reggae. Appunto. L'early reggae, quindi il primissimo reggae. La degna prosecuzione. Esatto. È quello che è diventato lo ska. È lo ska che si è rallentato, leggenda vuole, che in una calda estate giamaicana... rallentarono lo ska perché la gente faceva così caldo che non ce la faceva ballare. È una leggenda, in realtà non è detto che sia vero, o magari ha contribuito a rallentare il ritmo della musica. Probabilmente è stata una scelta prettamente musicale, discografica, eccetera, di sperimentazione. Ci può anche stare che delle temperature esagerate abbiano contribuito a fare musica un pochino più tranquilla, che magari ballare a 45 gradi lo ska inizia a essere abbastanza uno sbocco. Con l'asse a piovere proprio diventa tosta, quindi si è rallentato ed è diventato early reggae, è diventato reggae, poi viene specificato early reggae perché è proprio un reggae che è durato pochissimi anni, è durato per sommi capi 2-3 anni questo tipo di sonorità che andiamo ad ascoltare. Poi nel reggae si è rallentato ulteriormente, è diventato roots reggae, sono subentrate tematiche nuove. Fin qua quello che abbiamo ascoltato erano comunque tutte tematiche prevalentemente popolari o sociali o legate al divertimento, allo stiamo bene, eccetera, eccetera. Certo. Anche sociali, assolutamente anche sociali. Poi con il roots reggae è subentrato anche un certo elemento di spiritualità, ma qui, dopo la Coca-Cola, assolutamente non andiamo nella spiritualità. Quindi direi, l'abbiamo presentato, ci ascoltiamo questo, early reggae, un capolavoro assoluto dell'early reggae. Quindi è perfetto come chiusura del programma di stasera. Sì. E vi salutiamo su questa bomba dell'early reggae che è cantato da... Loro sono i Pioneers, i famosissimi Pioneers. Per questo brano specificamente Pioneers with the Blenders, è il brano famosissimo per gli amanti dell'early reggae, si intitola Them a Laugh and a Kiki, è slang patois giamaicano. E prima di far partire il disco facciamo i consueti saluti, un caldissimo ringraziamento qui a Giova che è venuto a portarci per l'invito, grazie a te. È venuto a portarci tutte le sue creme personali, spero che ritorni a farci visite, a lietarci con la sua musica, e io do l'appuntamento con me personalmente a sabato prossimo, ma con la programmazione di Radio Wombat vi ricordo domani pomeriggio con la consueta parentesi classica di Radio Wombat, con la fuga del gatto, con la Bloody Mary e la Virgi che saluto, che come dico sempre alleteranno la nostra domenica pomeriggio in ripresa, in recupero dalle fatiche del sabato sera, con un'oretta di ottima musica classica per rigenerare la mente e il corpo dalle fatiche del fine settimana. Un abbraccio a tutti, un bacio e alla prossima qui su Radio Wombat.